Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi vi portiamo alla scoperta del mondo delle start-up in Germania. Lo faremo insieme a una giovane professionista che, dopo aver puntato tutto su una formazione dal calibro internazionale, con esperienze formative in giro per l'Europa, ha trovato proprio in terra teutonica l'opportunità che cercava. A cavallo tra formazione e impiego, la puntata di oggi vi instraderà verso una carriera dal profilo continentale. Come sempre abbiamo fatto e come sempre continueremo a fare, gli ingredienti base della trasmissione saranno i consigli dei nostri testimoni, giovani che hanno sperimentato sulla propria pelle quella stessa via che vi invitano ora a percorrere. Tutte le segnalazioni del momento su lavori e tirocini, prevalentemente in Europa ma non solo, apriranno la puntata odierna insieme all'imperdibile appuntamento bimensile di Federico Fabiani di Scambi Europei, mentre nella seconda parte della trasmissione sarà Alessio Romeo a traghettarci verso le nuove professioni globali con le sue dritte dietro le quinte di ciò che si muove nel mondo del lavoro internazionale. A chiudere vi porteremo in un paese di cui non sentite certamente parlare molto all'interno della famiglia delle nazioni dove emigrare, eppure negli ultimi anni un drappello di connazionali vi si è trasferito, capiremo tra poco per cogliere quali opportunità. E allora, rotta verso la Germania per una nuova imperdibile puntata di Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ci mantiene ancorati all'Europa. Sono 2.494 i diciottenni italiani che si sono aggiudicati un biglietto gratuito per un viaggio alla scoperta dell'Unione tra la primavera e l'autunno di quest'anno. Alla quarta tornata di candidature Discover EU, iniziativa lanciata dalla Commissione Europea sulla falsariga dell'Interrail, ha raccolto quasi 75.000 domande per 20.000 tagliandi. I giovani italiani sono stati tra i più reattivi, inviando a Bruxelles oltre 9.000 candidature, la terza cifra più alta dopo Germania e Spagna. Il viaggio in Europa potrà durare fino ad un mese. I vincitori del concorso potranno viaggiare tra il 1 aprile e il 31 ottobre. Un nuovo round di candidature sarà annunciato nella prima metà di quest'anno con altri 20.000 tagliandi di viaggio in palio. Toolbox. Prosegue la collaborazione di Toolbox col portale Scambi Europei. Ogni due settimane segnalazioni utili e imprescindibili, nonché molto aggiornate su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Buon pomeriggio, Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei. Buon pomeriggio. Federico, oggi partiamo con te dalla capitale europea Bruxelles perché c'è una bella infornata di stage retribuiti. Dove? Si tratta di 100 stage presso il Consiglio dell'Unione Europea, appunto a Bruxelles, della durata media di 5 mesi, che sono rivolti a ragazzi che hanno completato il proprio percorso universitario in una delle seguenti materie: diritto, scienze politiche, relazioni internazionali, economia o simili, che abbiano una buona conoscenza del francese o dell'inglese. È prevista una borsa che copre appunto il periodo di tirocinio di circa 1.200 euro al mese, più un bonus mensa, la copertura assicurativa per infortuni e malattie e un contributo per le spese di viaggio. La scadenza per candidarsi è il 16 marzo. Restiamo nell'ambito delle istituzioni europee, ma andiamo in Lussemburgo. Per quali tipi di stage? Sì, si tratta di una serie di stage presso la Corte di Giustizia europea, appunto, che ha sede in Lussemburgo, anche questi della durata di 5 mesi, con un rimborso previsto di 1.170 euro netti al mese, a partire dal 1 ottobre 2020 fino al 28 febbraio 2021. In questo caso è richiesta una laurea in giurisprudenza o scienze politiche. Per quanto riguarda le tipologie di stage legate all'ambito amministrativo e appunto giuridico, oppure sono previsti anche degli stage rivolti esclusivamente a interpreti di conferenze, e appunto in questo caso è richiesto un diploma in questo ambito, e in entrambi i casi è comunque auspicata la conoscenza del francese. La scadenza per candidarsi a questi stage alla Corte di Giustizia europea in Lussemburgo è il 15 aprile. Hai parlato di francese, questo ci porta alla nostra prossima tappa, che è a Parigi per un altro stage. Dove? Presso la ESMA, che è l'autorità indipendente dell'Unione Europea che si occupa della protezione degli investitori e supervisiona la stabilità finanziaria appunto del continente. Si tratta appunto di stage della durata dai 6 ai 12 mesi per studenti ma anche per laureati in triennale. Nel caso di appunto stage per gli studenti, si parla di undergraduate trainership, è richiesta una convenzione con l'università di invio ed è prevista una borsa di 1.100 euro al mese, mentre nel caso di studenti già laureati almeno con laurea triennale si tratta appunto di un graduate trainership e in questo caso la borsa invece è di 1.600 euro mensili. I dipartimenti disponibili all'interno appunto dell'ESMA sono quello del Financial Market e Legal Department. E dopo tutti questi stage parliamo di lavoro, perché si avvicina l'estate e stanno cominciando ad arrivare le proposte per lavorare nei centri vacanze. Dove? Allora, abbiamo una serie di offerte sul sito appunto rivolte nello specifico a insegnanti di inglese, quindi persone che vogliono insegnare l'inglese presso centri vacanze in Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Irlanda, Malta e ovviamente anche in Italia. Si tratta di un'offerta di lavoro stagionale che parte a metà giugno fino a settembre 2020 e quello che è richiesto è la conduzione di lezioni a ragazzi e ragazze. Viene richiesta un'età minima di 25 anni compiuti entro il 31 maggio 2020, delle esperienze documentabili pregresse in questo campo, quindi nell'insegnamento della lingua inglese a bambini dai 7 anni in su, e ovviamente un'attitudine per l'insegnamento. È previsto un contratto di collaborazione occasionale e il rimborso per vitto, alloggio, viaggio, andata e ritorno. Per tutte le informazioni www.scambioeuropei.info. Il testimone. La testimone della settimana è una account manager 24enne. Sara ha trovato la sua opportunità di lavoro in Germania dopo una formazione universitaria condita da importanti esperienze in giro per l'Europa e oggi è qui a spiegarci come approdare nell'ecosistema delle start-up berlinese. Buon pomeriggio, Sara Pau. Ciao Sergio. Hai studiato economia e gestione aziendale all'Università di Cagliari ed è stato anche il tuo trampolino di lancio verso la carriera internazionale. Che borsa di studio hai trovato per andare in Polonia e a fare cosa? Sì, nel 2016 è uscita una borsa di studio nella mia Università di Cagliari e ho deciso di approfittare di questa occasione. Si trattava di una borsa di studio Erasmus Study che comprendeva dei fondi del MIUR, dell'Unione Europea e della Regione Sardegna. A ritorno in Italia hai constatato che avresti dovuto svolgere un tirocinio obbligatorio per completare i tuoi studi. Qui è cominciata anche la tua esperienza a contatto con il mondo tedesco. Quale opportunità hai preso al volo per partire verso Amburgo? Avevo appena finito i miei studi universitari e volevo appunto affrontare un tirocinio obbligatorio, è uscita un'altra borsa di studio all'interno dell'Università di Cagliari e quindi ho deciso di approfittare di quest'altra occasione per effettuare un tirocinio obbligatorio all'estero, in questo caso ad Amburgo. E di cosa ti sei occupata ad Amburgo? Ad Amburgo lavoravo all'interno di una startup che si occupava di comparazione online di prezzi di autonoleggio. Poi non contenta hai allungato di altri 6 mesi la tua borsa di tirocinio cambiando ulteriormente lavoro, ma vorrei soffermarmi sul programma Erasmus Plus Trainship. Lo consigli al di là del classico Erasmus? Quali vantaggi offre o svantaggi? Allora, sicuramente l'Erasmus Study e l'Erasmus Traineeship sono due esperienze totalmente diverse. Io principalmente penso questo in quanto l'Erasmus Studies è stato affrontato in un momento in cui ero più giovane e non ero veramente cosciente di quello che avrei voluto fare nel futuro. Quindi sicuramente l'Erasmus Traineeship ti permette di immergerti nel mondo del lavoro, ma l'unico svantaggio è che questa esperienza è di un periodo sicuramente limitato di soli 3 mesi. La borsa di tirocinio è sufficiente a coprire le spese? Questo è un aspetto importante. Allora, diciamo che non è assolutamente sufficiente in quanto ad esempio nella mia università si trattava soltanto di 500 euro che non ti permettono nemmeno di pagare l'affitto, però ad esempio in Germania tutti i tirocini sono retribuiti, quindi se si uniscono questi due finanziamenti sicuramente si può vivere senza nessun altro appoggio economico. Arriviamo alla tappa attuale della tua carriera, il lavoro a Berlino, perché dalla Germania tu non sei ancora tornata. Come l'hai trovato e di cosa ti occupi? Allora, io volevo cambiare esperienza, avevo già effettuato alcuni tirocini, quindi volevo un lavoro più duraturo. Quindi dopo il mio ultimo tirocinio ho deciso che volevo appunto immergermi nel vero mondo del lavoro ho iniziato a fare delle ricerche nei maggiori siti tedeschi come Xin e Indeed, però il mio lavoro alla fine l'ho trovato su LinkedIn, forse perché non parlando tedesco, LinkedIn è appunto una piattaforma più internazionale e ho appunto trovato il mio posto di lavoro in questa piattaforma. In questo momento sono un account manager all'interno di Finance Ads. Proseguiamo con i tuoi consigli pratici per aspiranti professionisti globali, partendo dalle opportunità che le università offrono già durante gli studi. Allora, cosa permettono di fare? Io consiglio sempre di approfittare di tutte le esperienze e le opportunità che l'università offre, anche perché io sono arrivata a questo livello grazie appunto a tutte le esperienze che ho fatto all'interno dell'università. Quindi sia i progetti proprio all'interno, quindi i lavori di gruppo, ma soprattutto anche le esperienze come le esperienze di Erasmus Study, di Erasmus Trainership, ma anche ad esempio l'esperienza di Globus. Sono tutte esperienze che l'università permette di fare e quindi secondo me bisogna coglierle. E Berlino, secondo te, è la destinazione ideale per chi vuole lavorare nel mondo delle start-up a livello continentale? Quali vantaggi offre la città? Sicuramente Berlino è una città perfetta se si vuole lavorare all'interno delle start-up, anche perché dopo Londra è la città in cui sono presenti la maggior parte delle aziende di questa tipologia. Sicuramente l'offerta che offre la startup è quella di lavorare all'interno di un ambiente super innovativo, super internazionale, ma anche un ambiente in cui effettivamente tu puoi decidere, puoi prendere decisioni e quindi raggiungere degli obiettivi migliori. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Sara Pau, 24enne account manager al lavoro a Berlino. L'approdo di Sara nella capitale tedesca è stata la naturale conseguenza di una formazione internazionale perseguita fin dagli studi universitari che l'ha proiettata verso esperienze tra Polonia e Germania. E oggi Sara è qui a spiegarci come sia possibile approfittare di tutti gli strumenti disponibili per rendere la vostra una marcia verso una dimensione europea. Riprendiamo l'ascolto. Generazione Mobile. Continuiamo con i consigli pratici. Ci sono siti che consigli dove guardare, adocchiare opportunità sia per lavori ma anche per tirocini in questo mondo innovativo di Berlino? Sì, sicuramente se si vuole trovare un lavoro io consiglio i maggiori siti tedeschi come Xing e Indeed, però sicuramente anche LinkedIn è un ottimo mezzo per poter trovare un lavoro dal punto di vista internazionale. E invece per quanto riguarda i tirocini, sicuramente io ho trovato in Graduatelan un sito perfetto per trovare un tirocinio post laurea. Tedesco bisogna saperlo? Non credo che bisogna saperlo, ovviamente questo dipende dalla tipologia di lavoro che si vuole andare a svolgere, ma Berlino è una città totalmente internazionale, quindi sicuramente si può trovare un'azienda in cui effettivamente non è necessario il tedesco. Vita pratica a Berlino, il mercato immobiliare purtroppo è saturo, allora dove cercare alloggio quando si arriva senza, diciamo, spendere una fortuna? Allora io consiglio sempre di cercare alloggio in un momento precedente rispetto al trasferimento, questo perché la situazione immobiliare a Berlino è veramente veramente difficile, quindi io consiglio sempre di cercare alloggio 2 o 3 mesi prima e di farlo attraverso vari siti che sono disponibili come ad esempio Wegegesucht o anche Immobilien Scout. Io personalmente ho trovato il mio alloggio su Wegegesucht. In estrema sintesi, l'Anmeldung cos'è e perché è così importante? La Meldung è la cosa più importante se ci si vuole trasferire in Germania, perché è quel documento che sostanzialmente permette di registrare la propria residenza al comune, ed è così importante perché tramite questo documento si ottiene il Tax ID, che è una sorta di codice identificativo come il nostro codice fiscale, che verrà sempre richiesto dal proprio datore di lavoro. Ci raggiungerà in linea Michele Valeriani, al lavoro anche lui nel settore advertising ma a Bratislava, Slovacchia. Buon pomeriggio Michele. Ciao Sergio. Laurea in economia aziendale marketing e poi dopo un lavoro in una startup il salto verso Bratislava. Come hai trovato lavoro, per chi e di cosa ti occupi? Sono arrivato a Bratislava un po' per caso, ho applicato per diverse multinazionali un po' in giro per l'Europa, poi ho applicato per Amazon a Bratislava, in Irlanda, in Polonia, e mi hanno chiamato a Bratislava. All'inizio sinceramente ero un po' titubante, ma poi adesso sono veramente felice di aver intrapreso questa strada. Michele, la Slovacchia è meno conosciuta come meta di lavoro, però quali sono i settori più attrattivi per italiani alla ricerca di destinazioni professionali all'estero e se hai anche dei siti da consigliare per cercare lavoro in Slovacchia? Bratislava è una città veramente in forte crescita e offre moltissime possibilità lavorative. Sono presenti moltissime multinazionali, soprattutto americane come Amazon, Dell, IBM, Lenovo, Henkel, quindi è abbastanza facile trovare lavoro qui. Di solito offrono un contratto a tempo indeterminato e ha moltissimi benefit e io consiglio sempre di cercare lavoro su LinkedIn, ma soprattutto sui siti delle singole aziende. Poi c'è anche una piattaforma profesia.sk, che è una piattaforma slovacca dove è possibile trovare altre offerte. E per chiudere, l'approdo in Slovacchia, quindi la ricerca di alloggio, l'integrazione, i primi passi, è facile, difficile, complicato? Ovviamente parliamo anche di una lingua per noi un po' più ostica. Ma a Bratislava l'inglese è comunque sufficiente, soprattutto a livello lavorativo. È chiaro che sapere un po' di slovacco aiuta soprattutto nella vita quotidiana, però posso assicurare che i ragazzi giovani, under 30, anche under 40, la maggior parte parlano l'inglese, quindi l'inglese è più che sufficiente per lavorare e per vivere. Grazie a Michele Valeriani, e abbiamo la nostra domanda di rito per Sara Pau: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Il mio consiglio, che è anche il consiglio che avrei voluto ricevere io prima di partire, è quello di organizzare ogni minimo dettaglio, non dare nulla per scontato, ma soprattutto informarsi tempestivamente di tutte quelle che sono le pratiche burocratiche che devono essere effettuate prima del trasferimento. Job Abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna a tracciare il quadro delle più interessanti offerte di impiego attualmente aperte a livello internazionale Alessio Romeo, fondatore di Face for Job ed esperto in digital innovation e processi di HR transformation. Ascoltiamo allora cosa ha da dirci. Eccoci, buongiorno. Oggi ci dedichiamo alle migliori offerte in corso attualmente nel mondo in cui sono espressamente richiesti profili italiani. Parliamo di opportunità un po' in tutti i continenti: Australia, Asia, Africa, Americhe e anche Europa, in particolare nelle country quali Germania, Irlanda, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Spesso accade proprio che aziende gestiscano wave di assunzioni periodiche, cicliche, stagionali, con specificità su delle caratteristiche curriculari, e noi italiani siamo tra i più ricercati per professionalità in ambito food, entertainment, alberghiero, ma anche professionalità più ingegneristiche o artigianali tipiche ed esclusive della creatività italiana, specialmente nel mondo del lusso. E allora partiamo subito con l'analisi diretta delle aziende che in questo momento manifestano questa esigenza specifica nei confronti dei nostri connazionali, e probabilmente a molti di voi che ascoltate si aprirà qualche porta o nascerà nuove idee e stimoli per prendere iniziative e provare a candidarsi. Partiamo con la Disney, che per un nuovo progetto a Lisbona in Portogallo cerca dei Customer Support Advisory, cioè degli ambassador del brand, primo punto di contatto per gli spettatori per pubblicizzare e divulgare l'eccellenza della società. Noti hotel in Germania di una catena molto nota assumono animatori, fitness trainer, camerieri, baristi, cuochi, receptionist ed è richiesto diploma di formazione, certificazione di personal trainer, indoor cycling o di deep work. Passiamo in Olanda, a Leiden, dove nota azienda di settore cerca esperti di trading e saranno responsabili della gestione di un portafoglio esistente di clienti e fornitori, nonché di identificare e acquisirne dei nuovi. Offerta di lavoro per chi parla italiano in Irlanda, società all'avanguardia nel settore delle prenotazioni biglietti per eventi in forte espansione, e per questo motivo è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel suo organico. Questa offerta vi darà la possibilità di lavorare in un ambiente multinazionale con colleghi di oltre 20 nazioni differenti. Il ruolo è quello di Italian Customer Service Representative e dovrà fornire supporto ai clienti in merito alle prenotazioni di biglietti per eventi dal vivo, sia per lo sport, musica e cultura in generale. Andiamo in Asia, alle Maldive, si cercano organizzatori di eventi. In Kuwait c'è una grande richiesta di ristoratori e chef, mentre a Dubai sono richiesti manager italiani per posizioni di expert director, cioè figure professionali responsabili dello sviluppo di nuove strategie per l'espansione delle vendite all'estero. Chiudiamo questa rapida carrellata con Tokyo, dove è richiesta la presenza di italiani per commercializzare prodotti tipici della nostra terra, quindi figure commerciali con esperienza ma anche in ambito marketing e fieristico. Internet Point. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi vi portiamo in un paese che non si trova esattamente sulle principali rotte migratorie in uscita dall'Italia, anzi, dalle sue coste partono più frequentemente e correndo grossi rischi giovani che hanno il miraggio del nostro paese. Eppure in Tunisia si è andata costituendo negli anni un'interessante comunità di connazionali. Qual è potenzialmente il valore aggiunto di un espatrio nel paese nordafricano? Lo abbiamo chiesto a Grazia Bartolo, ideatrice del gruppo Facebook Lascio l'Italia e vado a vivere in Tunisia, nonché coautrice del libro Trasferirsi in Tunisia. Ho deciso di lasciare l'Italia e andare a vivere in Tunisia insieme a mio marito 6 anni fa. Abbiamo iniziato questo percorso e non è stato facile, e proprio per questo motivo abbiamo pensato di aiutare le altre persone che vogliono trasferirsi in Tunisia con questo gruppo, ed è nata quindi questa idea 6 anni fa. C'è una stima di quanti italiani vivono in Tunisia? Sì, in questo momento siamo intorno ai 6.000 persone, non tutte ufficialmente presenti, però tra pensionati e imprenditori siamo intorno a questi numeri. Ecco, dividiamo proprio le categorie, e cioè chi viene a lavorare e poi pensionati. Partiamo dai primi. Quali opportunità ci sono a livello di lavoro o fare impresa in Tunisia? Allora, io direi che principalmente la Tunisia è un paese che è disponibile a chi ha un progetto, un'idea, una capacità di fare e un budget adeguato. Questo è il paese ideale per realizzare questo progetto. In quali settori? Sì, in Tunisia manca tutto, quindi abbiamo italiani che si occupano di edilizia, chi si occupa invece di pesca, chi si occupa di caffè. I settori sono infiniti, l'importante è che si abbia un mestiere in mano e una conoscenza e un'esperienza in questo settore, non ci si deve improvvisare. E poi c'è anche chi viene invece a godersi la pensione, in questo è un paese interessante, diciamo pure. Assolutamente sì, grazie alla convenzione che è stata firmata, una convenzione bilaterale tra Italia e Tunisia, c'è la possibilità oramai da tantissimi anni di defiscalizzare la propria pensione, quindi non essere soggetti a una doppia imposizione fiscale per tutti i pensionati, sia INPS sia ex INPDAP. All'interno del vostro gruppo Facebook immagino ci sia anche un po' di discussione sulle problematiche, sulle domande, su come venire in Tunisia, eccetera. Quali sono i temi più ricorrenti? È un paese che sta in un altro continente, quindi la curiosità all'inizio è tanta. Si ha la tentazione di venire, però il sentito dire, i mass media non disegnano la realtà quotidiana della Tunisia, quindi molti chiedono ma come si vive, qual è la cultura, quali sono le difficoltà, avrò problemi con la lingua, il mio stile di vita potrà essere mantenuto. Quali sono le vostre risposte? Assolutamente sì, soprattutto nelle zone che sono lungo il mare, Hammamet, Sousse, un po' Tunisi. Queste sono le zone in cui gli italiani si insediano normalmente. Per maggiori informazioni potete cliccare sul gruppo Facebook Lascio l'Italia e vado a vivere in Tunisia. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24, così riuscirete anche a recuperare le informazioni che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia e soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi stanno ascoltando? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it.